tempola, o quale accresce beltà l'amor nascente, a far l'indifferente si seguiti così, finché non viene ella a spiegarsi. Innamorito, ebbene! Dimmi, perché partire, perché farti soldato hai risoluto? Perché ho voluto tentare, se con tal mezzo il mio destino io poteva migliorar. La tua persona, la tua vita ci è cara. Io ricomprai il fatale potratto da bel cuore. Voi stessa, è naturale, opre d'amore.